con Enrico Falaschi del Teatrino dei Fondi, direttore artistico della nona edizione del Festival Contemporanei Scenari, a San Miniato dal 13 al 15 settembre e a Fucecchio dal 19 al 22 settembre. Enrico, ben trovato. Salve, Ci racconti questo festival? Festival nato nel 2010 per promuovere innanzitutto la drammaturgia contemporanea. Poi nel corso della sua vita si è un po' evoluto, si è anche ingrandito. Era nato inizialmente solo su San Miniato e ora sono 2 anni che ha anche una parte su Fucecchio, che è l'altro comune dove il Teatro dei Fondi gestisce il piano comunale. Si è trasformato divenendo un festival multidisciplinare, per cui c'è ancora una componente importante di teatro contemporaneo e di nuova drammaturgia, ma vi trovano spazio anche la danza contemporanea, il teatro per le nuove generazioni, incontri, dibattiti, presentazioni di libri e tanti giovani artisti che vengono ospitati in residenza artistica. Cosa prevede questa edizione? Allora, è un'edizione che cerca di riflettere sul presente, guardando sia al nostro recente passato, ma proiettandoci anche verso il futuro. Ci sono tematiche importanti che vengono affrontate dagli artisti delle varie compagnie, ad esempio l'ecosostenibilità, il rapporto della nostra società consumistica con la plastica, che è un tema al centro dell'attenzione. Si parla appunto di plastic free, di tutte le nuove frontiere, no? Che si cerca di percorrere per abbattere l'utilizzo della plastica non riciclabile, e la compagnia La Ribalta Teatro di Pisa ha scelto proprio di costruire uno spettacolo non tanto sull'utilizzo della plastica e basta, bensì sugli effetti che l'utilizzo ha portato nel corso dei decenni. Loro, nello specifico, partono da questa sorta di grandissima isola nel Pacifico, formata solo di residui di plastica, una zona di mare che è grande 3 volte la Francia e che qualcuno ha anche ribattezzato il settimo continente. Allora, loro hanno incentrato lo spettacolo come una sorta di viaggio turistico, fra virgolette, in questo settimo continente fatto di plastica. Allo stesso modo, ad esempio, si parla di donne, di parità di genere e lo fa Alice Bachi riprendendo la storia della prima cosmonauta donna, che era tra l'altro dell'Unione Sovietica. Quindi, a partire da quell'esperienza storica, la prima donna che va nello spazio, in realtà si parla di donne, di parità di genere. Sì. Altre tematiche vengono affrontate rispetto ad esempio agli scenari internazionali. Ci sarà un primo studio dello spettacolo Mare Giallo di Marta Paganelli, che ripercorre, in qualche modo restituisce l'esperienza che lei ha fatto andando volontaria nei campi profughi degli Sharawi. Quindi, anche in quel caso, uno spettacolo particolarmente centrale, no? Anche nel dibattito. In Italia si parla continuamente di flussi migratori. Ecco, il popolo Sahrawi è un popolo che in realtà vuole stare a casa sua e che anzi vorrebbe rientrare in quelle terre di cui è stato espropriato dal governo marocchino, che ha costruito un muro di separazione per non farli ritornare nei loro territori, che è il secondo muro più grande del pianeta Terra dopo la muraglia cinese, 2700 chilometri. Riproporremo anche uno spettacolo di cui abbiamo già parlato insieme, che è l'Eccidio sulla strage nazifascista, proprio perché lo scorso 23 agosto c'è stata la ricorrenza del 75esimo anniversario. Abbiamo scelto di riproporlo anche all'interno del festival. E poi la danza, ci sono quattro compagnie, una proveniente anche dall'estero, dalla Spagna, che alcune sono state in residenza nei nostri teatri in queste settimane, portando avanti il loro progetto, presenteranno in due serate il loro lavoro. Qua sono la compagnia Dance Company, Collettivo Chroma, poi c'è Cintar, che sono appunto questo collettivo spagnolo, e Lost Movement. Poi tante altre, sono 15 gli appuntamenti, il programma appunto c'è il teatro per le nuove generazioni, due appuntamenti di spettacoli fruibili dai 3 ai 99 anni, che comunque hanno dei risvolti tematici interessanti, sempre legati alla natura, all'accettazione, all'accoglienza, e sono il pesciolino d'oro e il chicco di grano. E poi c'è anche un evento un pochino particolare, specifico diciamo per San Miniato, dedicato a Mario Tucci. Laura Piazza, attrice fiorentina, ha realizzato questo spettacolo, che è un reading con immagini e musica sulla passione, la Via Crucis di Mario Tucci, e al termine del quale ci sarà un incontro che verterà proprio sulla poetica, la poesia di Mario Tucci, ma anche sul lavoro di Orazio Costa, perché queste due figure, di per sé anche diverse, in realtà hanno avuto un legame diretto con San Miniato nel corso della loro vita. Mario Tucci è stato insegnante al liceo di San Miniato e ha stretto una serie di relazioni durante quel periodo. Era entrato nell'Accademia degli Ausiliari, che era l'Accademia più antica di San Miniato, come socio onorario, e Orazio Costa invece ha fatto alcune delle primissime regie della Festa del Teatro, il festival, quello legato al Teatro dello Spirito, nato alla fine degli anni 40 a San Miniato come risposta della cittadinanza per la distruzione del teatro cittadino da parte dei nazisti, che l'avevano minato allorché lasciavano la città per rifugiarsi dall'altra sponda dell'Arno. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Allora, il sito del Teatrino dei Fondi è www.teatrinodeifondi.it, e lì è possibile trovare tutte le informazioni sui singoli spettacoli, costi, orari e luoghi. Oppure su Facebook c'è la pagina sempre del Teatrino dei Fondi, su Twitter o su Instagram. E allora ricordiamo la nona edizione del Festival Contemporanei Scenari a San Miniato dal 13 al 15 settembre, a Fucecchio dal 19 al 22 settembre. Un saluto e un ringraziamento ad Enrico Falaschi del Teatrino dei Fondi, che ne cura la direzione artistica. Enrico, un abbraccio, in bocca al lupo, e a presto. Un saluto a tutti gli ascoltatori.